Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Vacanze estive più corte e meno compiti per casa. Questa deve essere la scuola del futuro per il presidente nazionale dei presidi a Trieste per un evento di aggiornamento per i dirigenti scolastici. Chi non ha i requisiti per restare nel nostro paese può essere rimpatriato in tempi più rapidi. Anche a questo servirà il centro di prossima costruzione in regione. Le voci dei protagonisti del vertice di ieri in prefettura. Restituire a Pordenone il castello, ora occupato dal carcere, quando sarà aperto quello nuovo di San Vito al Tagliamento. È la richiesta allo Stato di una petizione promossa dal gruppo consiliare La Civica. Oggi è la giornata internazionale dei musei, che in regione vivono un momento particolarmente positivo. Non solo Miramare da tempo al vertice delle classifiche dei più visitati, ma anche i più piccoli. Promossa a pieni voti la Dunata degli Alpini a Udine. L'organizzazione ha funzionato, la sicurezza è stata garantita e il ritorno economico è stato notevole. Il bilancio del prefetto Marchesiello. Torna da oggi a domenica a Monfalcone il Festival della Comunicazione Scientifica Scienza Under 18. La manifestazione presenta i progetti di carattere scientifico elaborati dagli studenti. A Lignano Sabbia d'Oro la 37esima edizione della Biker Festival, uno dei più noti motoraduni dell'intero panorama internazionale. L'organizzatore illustra il programma della tre giorni. Le 12:32, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Daniele Lettige. Con la costruzione di un nuovo istituto penitenziario a San Vito al Tagliamento si libererebbe il castello che ora in Piazza della Motta ospita il carcere di Pordenone. Il gruppo consiliare La Civica si è attivato con una petizione per chiedere allo Stato di restituire l'immobile alla città. La storia di questo castello è particolarmente strana. Siamo una delle poche città italiane in cui il castello non è all'interno delle mura cittadine. Coloro che abitavano il castello e che erano i rappresentanti di volta in volta del potere erano invisi alla città. E c'era quindi una dicotomia fra di loro. Lo storico Enzo Marigliano ha raccontato in un libro Curiosità e storia del castello di Pordenone. Ha avuto vicissitudini incredibili perché è passato di mano in mano, di potere in potere, poi è arrivato nelle mani di privati che lo hanno proprio comprato, è andato in tragica rovina alla fine del Settecento, da lì in poi non si è più riavuto. E a partire, diciamo, dal 1500 circa, era diventato carcere. Un manufatto che il comune e la città chiedono le venga restituito una volta dismesso il carcere di cui è attualmente sede. Questa sera, con un incontro pubblico in biblioteca, viene lanciata anche una petizione popolare promossa dal gruppo politico La Civica. Roberto Freschi è il portavoce della Civica. Questa petizione parte da noi come iniziativa, ma vuole essere una cosa trasversale nella quale cercheremo di coinvolgere cittadini e istituzioni in modo tale che l'iter a cui andremo incontro, che non sarà un iter certamente semplice, possa trovare il sostegno di una vasta platea e che possa in qualche modo arrivare a questo obiettivo finale, che è quello di riportare il castello nella sua integrità alla città. Cosa farne è tutto da discutere. Spazi universitari o museali, nuova sede dell'Archivio di Stato o destinazione mista. Molto dipenderà anche da cosa si troverà all'interno. Qui sono passati re e imperatori e le sue stanze potrebbero riservare sorprese. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è tenuto ieri l'incontro nel Palazzo del Governo di Trieste, terminato in serata, sulla questione migranti. Al tavolo, con i prefetti della regione e il presidente Fedriga, il commissario straordinario per l'emergenza immigrazione. Si è parlato dell'hotspot da aprire in Friuli Venezia Giulia e dei rimpatri. Si fa più concreta l'ipotesi di un hotspot per migranti, un centro di primo soccorso, di accoglienza e di rapido trasferimento dei richiedenti asilo sul modello di Lampedusa o Pozzallo. Ieri l'incontro a Trieste tra i quattro prefetti del Friuli Venezia Giulia e il commissario straordinario per l'emergenza migranti nominato dal governo, Valerio Valenti, già prefetto proprio a Trieste, e il presidente Massimiliano Fedriga. Un percorso per ovviamente dare la prima assistenza ma poi allontanare chi arriva irregolarmente. e quindi l'idea ovviamente è di fare in Friulivenezia Giulia un hotspot. Valenti ha parlato di una struttura con capienza non superiore alle 300 persone. Il centro avrebbe al suo interno una zona di trattenimento per rimpatriare in tempi rapidi i migranti che arrivano da paesi considerati sicuri. Chi non proviene da luoghi sicuri sarà trasferito da lì nel giro di pochi giorni in altre regioni. Il commissario Valenti. Diciamo, il dato che emerge oggi è sicuramente, almeno dal mio punto di vista, l'assimilazione del Friuli Venezia Giulia un po' alle altre regioni che subiscono l'impatto del flusso migratorio, Sicilia e Calabria in particolare. I prefetti decideranno dove realizzare l'hotspot, ha aggiunto Valenti. La struttura potrebbe essere anche non a Trieste. Ci sono alcune ipotesi in campo, ha spiegato il prefetto Giuliano Pietro Signoriello. Queste analisi sono ancora in corso, abbiamo appunto ragionato all'interno dell'incontro, insomma, di queste possibilità, e adesso bisogna, insomma, cercare di fare una messa a terra la più possibile ravvicinata per poter fare delle scelte, insomma, concrete. I migranti irregolari identificati in questa prima parte dell'anno in Friuli Venezia Giulia sono stati quasi 6.000, con un incremento del 180% sull'anno scorso, aumento vicino al 300% solo per Trieste, secondo i dati della prefettura. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il meteo e il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 17 gradi, soffia bora a 40 km orari con raffiche di 70. Gorizia, Udine e Pordenone 18,5, Tolmezzo 18, Tarvisio e Sappada 12, Forni di Sopra 14, Piancavallo 10, Monte Zoncolan 7, Monte Lussari 3,5, Lignano 18,5, Grado 19. Queste invece le previsioni. Oggi pomeriggio su pianura e costa nuvolosità variabile con probabili schiarite più frequenti verso la costa. Sulla zona montana cielo nuvoloso con la possibilità di qualche locale pioggia o rovescio. Soffierà bora moderata in pianura sostenuta sulla costa. Per domani su pianura e costa cielo in genere variabile. Sulla zona montana nuvoloso con possibili locali deboli piogge o qualche rovescio pomeridiano. Su pianura e costa soffierà bora moderata a tratti sostenuta sulla zona di Trieste. La cronaca, due ragazzi, uno dei due minorenni, sono stati soccorsi questa mattina dai sanitari per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Morsano al Tagliamento, nella frazione di Saletto. Si sono scontrati mentre stavano rispettivamente su due scooter. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento, che li ha presi in carico e trasportati entrambi all'ospedale di Pordenone, uno in codice verde e uno in codice giallo per una frattura ad un arto superiore. Durante un controllo stradale alla barriera di Ugovizza, la polizia di frontiera ha sequestrato martedì scorso poco meno di 48 kg di bulbi essiccati di papavero, trovati nell'auto di un cittadino pakistano residente in provincia di Mantova con regolare permesso di soggiorno. I bulbi, analizzati dalla scientifica, sono risultati contenere il principio attivo dell'eroina. Ogni tubero, infatti, una volta svuotato ed essiccato, consente l'assunzione della sostanza stupefacente attraverso la masticazione. In alternativa, può essere fumato o utilizzato per fare un infuso con un effetto analogo a quello dell'eroina. In Italia l'utilizzo di tale sostanza stupefacente è particolarmente diffuso, in particolare nelle comunità straniere. I bulbi erano stati precedentemente acquistati in Austria, paese dove vengono regolarmente venduti in quanto considerati materiale decorativo. La scuola del futuro, secondo il presidente nazionale dei presidi a Trieste, per un corso di aggiornamento che ha portato nel capoluogo dirigenti scolastici da tutta la regione. Mentre nelle classi si respira già aria da ultimo giorno di scuola, con l'estate alle porte, al seminario di formazione professionale il presidente nazionale dell'associazione presidi Antonello Giannelli, ai nostri microfoni qui a Trieste, lancia un'idea quasi rivoluzionaria per le abitudini del nostro paese, immaginando una scuola moderna che non chiuda più 3 mesi d'estate e che durante l'anno sia aperta più a lungo e che includa attività pomeridiane, sportive e musicali. Non è fantascienza, dice Giannelli, ma sicuramente il dibattito al momento non è ancora maturo, ma va fatto. Il clima meteorologico è cambiato, abbiamo estati diverse rispetto a un tempo, si potrebbe pensare a pause più lunghe durante l'anno e pause estive più brevi. Questo significa rivoluzionare completamente la scuola e orientare anche il personale in modo diverso. La scuola, continua, dovrebbe seguire la società che cambia, i genitori lavorano e non hanno tempo di seguire i figli il pomeriggio. La scuola deve stare aperta più ore in modo che i ragazzi trascorrano meno tempo a casa soli, abbandonati davanti al cellulare. a scuola, il pomeriggio conclude, bisognerebbe fare educazione fisica, non a caso abbiamo il più alto tasso d'obesità infantile d'Europa. Chiediamo se i tanti soldi dati dal PNRR potrebbero aiutare in questo senso, ma Giannelli dice sì, possono aiutare, ma sono soldi una tantum, la scuola ha bisogno di essere interamente ripensata e avere una continuità di risorse economiche per cambiare passo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Archiviata la 94esima adunata degli alpini che hanno lasciato Udine domenica sera, il prefetto Massimo Marchesiello ha illustrato stamattina il bilancio della manifestazione. Una 94esima adunata degli alpini promossa a pieni voti sia dal punto di vista organizzativo che della sicurezza, e quanto hanno dichiarato durante la conferenza stampa sul bilancio che è ancora in corso. 500.000 persone presenti in città, 85.000 gli alpini che hanno sfilati, tanti volontari impegnati da giovedì a domenica, 1.174 volontari di protezione civile alpini, 3.331 alpini delle sezioni del Friuli Venezia Giulia e 1.142 di protezione civile regionale, 5.600 i pasti erogati tra ente fiera, mensa della cittadella e mensa per il personale sanitario ubicata nella palestra di via Marangoni e dello Sellini. 1.600 gli uomini delle forze dell'ordine in campo che hanno effettuato servizi di ordine pubblico, ricognizione e vigilanza senza riscontrare criticità. 17 reati di cui 14 per furto, 9 deferiti all'autorità giudiziaria e 6 per ubriachezza molesta. Un buon ritorno per gli operatori commerciali, ha sottolineato il vice sindaco Venanzi. 250 gli operatori dei vigili del fuoco per 33 interventi, grazie all'attività di prevenzione fatto all'inizio con gli operatori. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. L'ANPI provinciale ha chiesto alla questura di Udine di accertare se nei fatti accaduti in piazza Faedis sabato scorso durante l'evento organizzato dal sindaco Balloch si ravvisino gli estremi del reato di apologia del fascismo. La norma prevede che chiunque pubblicamente esalti esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista sia punito con la reclusione fino a 2 anni e con una multa. Durante l'evento pubblico è stato trasmesso attraverso le casse acustiche, come hanno segnalato all'ANPI diversi cittadini, la canzone fascista Faccetta Nera. La presidente Antonella Lestani, a nome del Comitato Provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Udine, ha espresso una forte condanna politica ed etica per chi ha compiuto l'inaccettabile scelta di riproporre un motivo fascista. Torna da oggi a domenica a Monfalcone il Festival della Comunicazione Scientifica Scienza Under 18, arrivato alla 13ª edizione. Una manifestazione nata con l'intento di presentare i progetti di ambito scientifico realizzati dai ragazzi delle scuole, agli altri studenti, ma anche a cittadini e agli interessati di tutte le età. Ce ne dice di più la presidente dell'associazione Scienza Under 18 di Gorizia, Giuliana Candussio. Il Festival Scienza Under 18, organizzato dall'associazione Scienza Under 18 Isontina, ha l'intento di ospitare tutti i ragazzi e di evidenziare i lavori che vengono fatti a scuola, renderli partecipi a tutta la cittadinanza, oltre che ad altri studenti e altre scuole. Praticamente valorizzare tutti i lavori in ambito scientifico che vengono svolti a scuola. Gli studenti presenti vanno dall'infanzia fino alle superiori, chiaramente sono lavori curricolari. Quanti sono i ragazzi che partecipano e da quante scuole? Le scuole sono 25 circa, con una novantina di classi che presentano circa una settantina di attività di varia tipologia di comunicazione anche. Si va dagli exhibit alla rappresentazione teatrale, ai laboratori, ai giochi e a quant'altro. Sono previste anche delle forme di gare? Le gare erano precedenti, perché noi sabato per esempio abbiamo la premiazione sia del concorso di fotografia scientifica, per cui i ragazzi durante l'anno, durante le loro attività, hanno fatto delle foto che ci hanno inviato e queste vengono premiate e costituiscono una mostra che è appunto presente tutti i 3 giorni qui a Monfalcone. L'altra premiazione riguarda invece una gara di giochi matematici svolta a scuola in occasione della Giornata Internazionale della Matematica. In questa occasione del festival vengono premiati le classi vincitrici. L'edizione di quest'anno prevede sia eventi imprevisti presenza che online, come è già stato per quella dell'anno scorso? Quest'anno è prevalentemente in presenza. C'è qualcosina anche online, perché le scuole hanno presentato anche video che vengono trasmessi su YouTube e sistemati sul nostro canale YouTube da una classe dell'IT Galilei di Gorizia. Lo sport, il basket. In Serie A2, Udine ha battuto Cividale nella gara 2 dei quarti dei play-off promozione, riportando la serie in parità. Molte le differenze rispetto alla prima partita. Sentiamo il commento degli allenatori di Udine, Carlo Finetti, e di Cividale, Stefano Pillastrini, su come prepareranno la terza partita in programma al Palagesteco di Cividale sabato alle 20. Le interviste sono di Andrea Saule. Tutto un'altra fisicità, più adeguata ai play-off, più adeguata a giocare contro una grande squadra che fa, come dicevo anche in sede di presentazione, dell'aggressività al suo marchio di fabbrica. Quindi credo che alla fine sia venuta fuori, almeno fino a 3-4 minuti alla fine, un'ottima prestazione da parte nostra. Gli isolamenti su Gentile e anche su Esposito hanno dato il loro frutto? Sì, più che isolamenti, noi sappiamo che abbiamo un tonnellaggio diverso da quello di Cividale, quindi dobbiamo provare a sfruttarlo in zone diverse del campo. Chiaramente il mismatch fisico che ha Alessandro in questa categoria è palese sotto gli occhi di tutti. Alla fine lo sforzo e la stanchezza si sono fatte sentire? Sì, abbiamo fatto una grande partita per 3/4, sono stati davvero bravi. Poi la partita ha preso un piano di fisicità, questo è il metro che gli arbitri hanno scelto, non ci aiutava e quindi sai, con questo tipo di fisicità noi alla fine siamo calati, però abbiamo ancora tante armi, devo venire in casa nostra, credo che possiamo competere anche con grande fisicità. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Va in scena da oggi a domenica a Lignano Sabbiadoro la 37esima edizione della Biker Fest International, il più storico show d'Europa e uno dei massimi eventi di moto radunistici dell'intero panorama internazionale. Sentiamo l'organizzatore Mike Persello che ci illustra il programma della Tre Giorni. Il programma della Biker Fest è gigantesco. Gli eventi principali sono indubbiamente la parata delle moto per la strada di Lignano Sabbiadoro nel sabato sera e la parata delle auto americane nella domenica mattina. Ma naturalmente il tutto è condito dalla musica, quindi 3 concerti al giorno solo sul palco principale. Ci sono tante attività anche legate al mondo della scuola. Nel venerdì mattina avremo ben 3 scuole con degli educational e al mondo dell'arte. Ma naturalmente non mancheranno poi tutte quelle che sono le esibizioni in off-road, quindi up kart e quant'altro, e il naturalmente attesissimo elicottero che porterà i visitatori a fare un giro sulla penisola di Lignano da venerdì a domenica. Quanti sono gli espositori? Sono diverse centinaia, abbiamo 12 case moto ufficiali che faranno provare i loro veicoli gratuitamente da venerdì a domenica in area stadio, abbiamo più di 10 case automobilistiche che faranno provare invece veicoli ibridi ed elettrici e naturalmente tutto il resto degli espositori che riguardano il merchandising, l'abbigliamento e quant'altro, quindi quelli sono centinaia. Mi diceva di un programma dedicato alle scuole, che cosa prevede? Il programma dedicato alle scuole si è incentrato con quello che riguarda le scuole salesiane automotive, il tutto è nato dalla ricerca continua dei nostri ospiti e quindi customizer, preparatori di moto, di nuovi adepti, quindi meccanici, preparatori, e saranno dei corsi all'interno di Terra Samara nel venerdì mattina, organizzati direttamente dalle scuole salesiane d'Italia, arriveranno fino da Roma i ragazzi e poi verranno a conoscere la nostra realtà e quindi conosceranno le officine che si adoperano per costruire questi mezzi speciali su 2 ruote. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Daniele Lettig, in regia per la parte tecnica Roberto Cavallari, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.